Io sono vivo, sono partigiano, perciò odio chi non parteggia, odio gli indifferenti. Antonio Gramsci, morto di consunzione carceraria in età di 46 anni, nel 1937, anno 76 dell'Unità d'Italia. Padrona mia, ti voglio arricchire. Padrona mia, ti voglio arricchire. Con mano crena i tuoi fatti. Con mano crena i tuoi fatti. E quando sbaglia dammi li botte. E quando sbaglia dammi li botte. Voglio la morte, ma non me caccia. Voglio la morte, ma non me caccia. Capitolo terzo. La scuola. Sarà sempre meglio della merda. Firmato i ragazzi della scuola di Barbiana. All'adulto e ai popoli molto colti, tutto il mondo è il mondo dell'ovvio, del luogo comune. L'uomo, perciò, applica i suoi cartellini col prezzo e occorrendo le informazioni sulla merce, sull'uso, dovunque. Questo è un campo, questo è un cavallo, questo è l'oceano, questa è la bandiera nazionale, questa è la propria madre, questi sono due ragazzini. Ma per il fanciullo e l'adolescente, e anche per un certo tipo di artista, un po' meno per lo scrittore, non è così. Dovunque egli si inoltri, tutto risplende di una luce senza origine. Ogni cosa che gli tocca, la bandiera, un cavallo, l'oceano, scotta e lo folgora di stupore. Egli capisce ciò che l'adulto non capisce più. Il mondo è un corpo celeste e tutte le cose nel mondo e fuori sono di materia celeste e la loro natura, il loro senso, tranne una folgorante dolcezza, sono insondabili. Il ragazzo chiede alla ragione superiore una spiegazione sul perché o il come di tali magnificenze. Di solito i superiori, maestri e genitori compresi, non sono più informati di un calamaio. Il ragazzo è solo. Il suo approssimarsi e poi la caduta, spesso uno scontro con la terra e il mondo cosiddetto reale, avviene così. È un'estasi o l'impatto. Avere in queste circostanze mezzi espressivi, essere educati a usare questi mezzi, potrebbe voler dire essere forniti di un paraurti o un paracadute. Significherebbe entrare nel mondo del reale per il verso giusto e proprio all'anima dell'uomo, che è l'atto creativo. Quando ciò non avviene e il bambino entra nel mondo esclusivamente attraverso la proprietà di oggetti di mercato, in lui resta un'ansia. Un vuoto che spesso si fa amara insoddisfazione o ira, sebbene egli abbia tutto, perché nella sua educazione o nascita al mondo è mancato l'apporto della sua propria invenzione o creatività. Egli ha trovato tutto già fatto, e il tutto fatto da altri che lo distruggerà. Egli, da quando si accorgerà della propria amputazione fantastica o creativa, come un muro vuoto, vorrà distruggere. Così ho sempre pensato che il problema massimo del mondo e della sua pace, anche se relativa, sia avere dei bambini,

e tutte. Raccontiamo cos'è questo festival. Intanto è un'occasione unica e rara di poter presentare non soltanto il proprio lavoro, ma anche riaprirlo in fase processuale al pubblico e quindi scomporlo e condividere con il pubblico una parte di processo. Quindi la sezione Oscillazioni ideata da Roberta Nicolai, che è sempre fonte di grande ispirazione, insomma, è un'occasione unica per tutte le artiste e gli artisti. Qual è il vostro rapporto con il festival? Diciamo che lo seguiamo da tanti anni, sicuramente è uno dei luoghi, è una delle occasioni in Italia e non soltanto, insomma, di entrare in contatto con artiste e artisti che fanno del proprio lavoro anche un'esperienza di ricerca. E quindi non è una cosa usuale in Italia, insomma, non è un eventificio e questo ci fa molto piacere. E quindi per le artiste e gli artisti è sempre bello approdare a Teatri di Vetro, insomma, è un'occasione non scontata. Quest'anno cosa portate? Presentiamo Monas, che è il nostro ultimo lavoro, che nasce da una lunga indagine e viaggio tra i materiali di Debord, del filosofo francese, che in realtà non amava farsi chiamare filosofo, e che interroga lo statuto di realtà dell'immagine nell'era della schermocrazia, così per darti una sintesi in una frase. Nel complesso, quanti sono gli appuntamenti? Ogni giornata prevede 4 appuntamenti, credo che siano una ventina. I riferimenti internet per tutto il programma? Esatto. Teatridivetro.it. Visto che lo seguite da tempo, come si sta sviluppando? Teatri di Vetro è una rassegna storica che si è evoluta tantissimo nel tempo, e questo lo diciamo insomma con lo sguardo di chi appunto l'ha seguito dagli esordi. Quindi all'inizio aveva forma di rassegna definita con degli appuntamenti di spettacolo. Ricordo con amore il Teatro Palladium, storica sede del festival, e poi nel tempo ha aperto il suo discorso appunto a 3 fasi differenti durante l'anno, e accogliendo nel programma dei processi non soltanto di creazione, ma anche facendo dei processi di creazione occasioni di formazione e di discussione aperta sulle poetiche, sulle estetiche di alcune artiste e artisti che poi sono tornate e continuano a ritornare nel programma. Questa è una cosa rara in Italia, perché con Teatri di Vetro si ha l'occasione di seguire davvero il percorso, appunto, le poetiche, insomma, il percorso di ricerca delle artiste e degli artisti, e questo permette non soltanto una certa affezione, una cosa di cui il teatro in Italia ha bisogno, ma permette di non cristallizzare il teatro in un prodotto, che è un po' quello che in qualche modo da decenni la politica ci costringe a fare. E quindi si è evoluto nei suoi formati, comprendendo anche, tra l'altro, un magazine dove si raccolgono anche in forma scritta interventi teorici. Insomma, direi che davvero ha assunto una multiforma ed è, ripeto, e non mi stanco di dirlo di nuovo, occasione rara. 18ª edizione del Festival Teatri di Vetro a Roma dall'8 al 21 dicembre 2024. Un saluto e un ringraziamento ad Anna Gesualdi e Giovanni Trono di Teatri in Gestazione. Alla prossima! Alla prossima! Ciao, ciao a tutte, ciao a tutti. Con Daniele Ronco, autore e attore dello spettacolo Mi abbatto e sono felice, ispirato al libro La decrescita felice di Maurizio Pallante. In scena a Roma, allo Spazio Diamante, dal 18 al 22 dicembre 2024, ben trovato. Ben trovato a te, grazie per l'invito. Che lavoro è questo? Questo è un lavoro che parte da lontano, che parla di cultura, di radici, di tradizioni, le mie. È uno spettacolo che io ho scritto nel lontano 2015, dopo la morte di mio nonno. Io volevo far unire una parte autobiografica ai valori della sostenibilità, dell'economia circolare. Questo perché? Perché io sono cresciuto ai piedi delle Alpi, in mezzo ai monti, insieme al mio nonno Michele. E quando morì il mio amato nonno Michele, decisi di in qualche modo far continuare a vivere la sua memoria, perché credo che la figura degli anziani, dei nonni, soprattutto quando sono esempi positivi, sono delle figure molto preziose. E quindi ho deciso di raccontare questa storia appunto a cavallo tra aneddoti di vita personale e poi legati all'economia circolare, il tutto con un approccio ironico, dissacrante, un po' cinico, perché trattare temi della sostenibilità non è semplice. In che rapporto è con il libro, lo spettacolo? Il libro ha un ruolo cruciale, anche perché poi l'idea di unire appunto la mia vita con questo tema è scaturita dopo aver letto il libro prima di Latouche, che è un po' il capostipite del movimento per la decrescita in Francia, e poi è il libro di Maurizio Pallante. Maurizio poi l'ho incontrato, ha partecipato al testo, ha fatto l'editing del testo insieme a me, insomma, per l'accuratezza dei dati, per le fonti, eccetera eccetera, e ha un ruolo cruciale perché appunto nel libro ci sono diverse citazioni dal libro. Io poi creo dei link con appunto la mia vita personale, perché sono io il primo che, mentre leggevo questo libro, avevo continue immagini della mia infanzia, della mia adolescenza passata nei prati, quando tutto mi sembrava normale. Ti faccio un esempio: non so, a casa mia era normale che le zucchine in tavola non ci fossero, no, perché non sono di stagione, però per me erano tutte cose scontate. Poi, quando ho incontrato le luci del progresso, la vita urbana, eccetera eccetera, quando sono diventato più grande, ho capito che alcune cose che per me erano scolpite nel DNA così non erano. Come hai pensato la messa in scena? La messa in scena è nata come una provocazione. Io volevo dimostrare innanzitutto a me stesso e al pubblico che si può passare un'ora di tempo in maniera ironica, ma al contempo anche pensante, ecco, senza impattare o impattando pochissimo sull'ambiente. E così la mia scommessa era quella di recuperare il più possibile la scenografia, gli oggetti di scena, dal guardaroba di mio nonno, dalla sua casa e non solo. Poi, quando ho visto la sua vecchia Bianchi, lì mi è venuta un'idea. Ho visto questa bici, ho parlato con il Politecnico di Torino, con l'Università. Si è fatta questa joint venture strana tra mio padre, che è un meccanico, tra l'università. Abbiamo costruito un progetto del primo bici generatore, quindi abbiamo preso un alternatore di una vecchia 500, abbiamo costruito questo accrocchio per cui pedalando si illumina, e quindi io racconto in sella alla vecchia Bianchi di mio nonno questa storia incredibile, fatta di, appunto, come ti dicevo, di radici, di tradizioni, il tutto con uno sguardo super contemporaneo e in un'ottica di economia circolare, di energia circolare, perché ogni auto illumino mentre pedalo. Come lo hai strutturato poi, drammaturgicamente? Siamo appunto nell'ambito del teatro di narrazione, no? Quindi i miei più grandi ispiratori sono i grandi del teatro di narrazione. Ho scritto una storia dove ho cercato di mai alzare il dito indice e puntarlo moralisticamente, ma cercando di avere sempre un approccio, un po' un bastone, un po' la carota. Quindi ho cercato di limitare al minimo indispensabile i dati, ne do veramente pochi, e mi sono concentrato tanto sulla storia, sugli aneddoti, e poi ho cercato di portare in scena un po' l'anima di mio nonno, che era una persona estremamente carismatica. Io ho anche recuperato i suoi vestiti dal suo guardaroba, e quindi ho cercato di immaginarmi come l'avrebbe fatto lui questo spettacolo, sempre un po' con il sorriso nel cuore. Ci sono dei riferimenti internet per saperne di più? Sul sito dello Spazio Diamante, in questo caso, oppure per chi volesse scoprire di più appunto di Mulino ad Arte, della mia compagnia, è www.mulinoadarte.com, anche sui social, Instagram, Facebook e TikTok. Lo spettacolo Mi abbatto e sono felice, ispirato al libro La decrescita felice di Maurizio Pallante. In scena a Roma, allo Spazio Diamante, dal 18 al 22 dicembre 2024. Un saluto e un ringraziamento all'autore e attore Daniele Ronco. Alla prossima! Grazie, alla prossima, grazie, ciao! Con Gianluca Del Gobbo, direttore artistico dell'ottava edizione del Festival Fotonica a Roma dal 13 al 21 dicembre 2024, ben trovato. Grazie a tutti, ben trovati anche a voi. Spieghiamo cos'è questo festival. È un festival di arti digitali, apre molto all'elemento luce già dal nome Fotonica. Ogni anno ci siamo dati un carattere con varie versioni immersive e quant'altro. altro quest'anno è un'edizione particolare, appunto perché utilizziamo un DOM, che sarebbe una cupola geodetica con uno schermo interno, si chiama pressione negativa, ma comunque uno schermo che rende la superficie semisferica, in cui ospitiamo tanti artisti, da contenuti per i più piccoli dalle 11 di mattina alle 5 e dalle 5 alle 8 contenuti insomma normali, non che gli altri non lo siano. Poi nei fine settimana, quindi venerdì e sabato, la sera abbiamo un'apertura notturna con dei live che sono abbastanza particolari, perché queste strutture, che poi in fondo sono dei planetari, appunto difficilmente vengono utilizzate per cose diverse che non siano le stelle, quindi già dei video è un qualcosa di particolare, addirittura dei live, insomma è un po' la chicca di questa edizione. Poi c'è un'altra sede, anche Accademia d'Ungheria, ma ce ne sono state anche altre con dei workshop e quant'altro. Insomma, abbiamo fatto tante altre attività, al Fusolab domenica ci saranno dei workshop per bambini. Insomma, un programma molto ricco. Quanti sono gli artisti e le artiste presenti? Si aggirano intorno ai 70 artisti, perché questa edizione è fatta in collaborazione con un altro progetto europeo che seguiamo, che si chiama Promosphere, appunto dedicato ai DOM, che fa 5 tappe in Europa e con cui abbiamo fatto una selezione di artisti, in particolare 10 artisti per la parte video e 5 per la parte kids, e a questi si aggiungono poi, per questo poi il numero esatto non lo voglio dire, i lavori fatti nei vari laboratori, tra cui un laboratorio fatto alla NABA, un workshop fatto alla NABA, una residenza da studio da noi e che è ancora in corso, ma anche i workshop per i più piccoli. Quindi tutti questi artisti in fondo che hanno partecipato in questi vari laboratori, workshop e residenza artistica, produrranno dei contenuti che andranno sulla cupola. Quindi, siccome voglio mettere anche loro tra gli artisti partecipanti, un numero preciso ancora magari non lo sappiamo, perché non sappiamo quanti bambini parteciperanno agli ultimi workshop. Comunque tanti da tutto il mondo, dalla Cina, Taiwan, ovviamente tanti europei. E un'altra particolarità di questa edizione è che la metà degli artisti sono artisti donne, in manifestazioni in cui di solito gli uomini sono sempre la maggioranza. Com'è stata la scelta artistica? Non è stata facile, perché contenuti di questo genere non sono tantissimi, anche se ultimamente, in particolare il SAT di Montreal, con cui abbiamo collaborato, che è un planetario che sta sperimentando questa tipologia di contenuti, con loro abbiamo fatto una collaborazione e gli altri abbiamo fatto anche una piccola open call per fare la selezione. E poi nel progetto europeo sono stati scelti 3 curatori che hanno guardato un po' tutte le varie proposte e abbiamo cercato di selezionare un po' quello che può essere il meglio di questo tipo di arte che si chiama nei full dome. I luoghi del festival? Questo dome, questa cupola, che sta sotto il Casilino Sky Park, quindi a Via Casilina 1011, è la location principale, anche perché appunto è aperta sia di giorno che di notte. Poi c'è l'Accademia d'Ungheria, che è aperta dalla mattina alle 11 fino alla sera alle 7, dove c'è una mostra, quest'anno abbiamo dedicato a una monografia su David Souther, che ha fatto una rivisitazione di un'opera cinetica di Monoli Nagy, che è stato un grande della Bauhaus. Lui ha ripreso un suo progetto studiando un po' di video, un po' di materiali che erano rimasti, ha ricostruito quest'opera, che oltre ad essere una scultura cinetica utilizza anche la luce che viene proiettata nel bellissimo chiostro dell'Accademia d'Ungheria a Via Giulia. Questi due luoghi principali e alcune attività che abbiamo fatto in altri luoghi come appunto la NABA sono già finiti, e invece c'è ancora il workshop per bambini al Fusolab di domenica 15. Tutte le informazioni poi con i vari dettagli chiaramente si possono trovare sul sito fotonicafestival.com e social Fotonica Festival sia su Instagram che su Facebook. Ottava edizione del Festival Fotonica a Roma dal 13 al 21 dicembre 2024. Un saluto e un ringraziamento al direttore artistico Gianluca Del Gobbo. Alla prossima! Grazie a voi, grazie a voi. Con Alessio Scandurra dell'Associazione Antigone per presentare il libro DDL Sicurezza, il più grande attacco alla libertà di protesta della storia repubblicana. Ben trovato. Grazie, ben trovato. Ci presenti questo lavoro? Il lavoro nasce da ebook, alcuni ad hoc, altri prodotti in questo periodo, che hanno un po' accompagnato lo sgomento nostro quando abbiamo cominciato a leggere le prime bozze e poi seguire la discussione attorno al nuovo disegno di legge sicurezza, che per certi aspetti appunto è l'ennesimo disegno di legge sicurezza, nel senso che si continuano a introdurre nuovi reati, ad alzare le pene verso le fasce più marginali, a rendere più complicata la vita ai migranti e ad aggravare, che poi questo per noi è un tema di particolare rilevanza, a rendere più invivibile la vita di chi è detenuto in carcere e di chi in carcere ci lavora, facendo crescere sempre di più i numeri. Però ci sono anche degli elementi di novità qualitativa in questo disegno di legge, quindi non solo nuove pene, ma anche in qualche modo un'idea nuova e diversa delle istituzioni. Ci sono per esempio tante aggravanti di reato nuove per i reati compiuti ai danni delle forze dell'ordine, come se i pubblici ufficiali non fossero tutti uguali, ma i pubblici ufficiali che appartengono alle forze di polizia valessero di più dei magistrati o degli altri pubblici ufficiali. Piano piano passa l'idea che uno Stato che è fatto sempre di più di norme penali, allora debba sempre di più appoggiarsi e porre al proprio centro le forze dell'ordine. È uno spostamento in direzione opposta rispetto a uno Stato democratico, conforme alla nostra cultura istituzionale, che ci preoccupa molto. Quali sono le principali criticità? Ci sono 20 nuovi reati là dentro, non sentivamo il bisogno nemmeno di uno di questi 20, tutti peraltro per fatti già regolati e già puniti. Fa tantissima paura, per esempio, questa libertà di protesta dei giovani ambientalisti. Questo sembra essere una delle emergenze del paese, e allora ci vuole un nuovo reato tutto per loro, che non intralci le proteste dei tassisti, che non intralci le proteste dei trattori, ma fatto apposta per questi giovani ambientalisti che evidentemente rappresentano una minaccia per il paese. Bisogna impedire ai cittadini stranieri, ai migranti, di comprare la SIM se non hanno la cittadinanza. Tutte cose fatte per rendere più difficile la vita di quei gruppi, di quelle classi sociali che sono da sempre destinatari dell'ostilità di questo governo da quando ha assunto l'incarico. Noi in particolare poi guardiamo veramente con spavento a questo reato di rivolta penitenziaria, che di nuovo punisce condotte che erano già punite dal codice penale e dai regolamenti interni del carcere con sanzioni amministrative, punendo fino a 8 anni pure chi mette in atto proteste pacifiche, che proteste non violente, i detenuti all'aria per protesta non vogliono rientrare nelle proprie celle, per esempio si trattengono all'aria per protesta più dell'orario previsto, possono essere puniti con pene fino a 8 anni. Un'idea appunto di carcere antidemocratico, di carcere del silenzio, di carcere della sottomissione, che fa il paio poi con le notizie che leggiamo sui giornali di pestaggi che configurano torture proprio in risposta magari a proteste legittime. Come è strutturato il volume? È una raccolta appunto di contributi legati ai vari temi che sono toccati dal decreto sicurezza e all'impatto che questo ha sui vari aspetti appunto del nostro ordinamento, ma anche alla cultura costituzionale che mette in crisi la cultura costituzionale che è lo stato di diritto del nostro paese, anche secondo il parere dato dall'OSCE proprio sul disegno di legge sicurezza, e questo rischia di essere un attentato allo stato di diritto, una minaccia allo stato di diritto per la Repubblica italiana. Che circuitazione avrà il libro? È in versione sia cartacea che digitale? Era un prodotto digitale, poi la casa editrice si è offerta di pubblicarlo ovviamente in tempi rapidissimi, perché è un libro che discute e critica un disegno di legge che nelle intenzioni del governo deve essere approvato molto rapidamente, quindi avevamo bisogno che fosse in libreria in tempi rapidissimi e loro si sono dati disponibili a questo. Il libro DDL Sicurezza, il più grande attacco alla libertà di protesta della storia repubblicana. Un saluto e un ringraziamento ad Alessio Scandurra dell'Associazione Antigone. Alla prossima! Grazie a te, a presto! Siamo all'agenda per gli appuntamenti della settimana riguardanti il teatro e gli eventi culturali più in generale con Simone Nebbia di Teatro e Critica. Ciao Simone. Ciao a tutti, buon pomeriggio ed eccoci qua a segnalare l'ultima settimana prenatalizia del teatro romano e andiamo subito nel dettaglio. Allora, cominciamo dal Teatro della Cometa Off, che ancora questa sera, è stata da due giorni, insomma ieri, e oggi per questo Lisa, spettacolo di Nicolo Sgallo, dedicato a un personaggio non secondario, Elisabetta, ma un personaggio sicuramente importante all'interno di Fratelli Karamazov e di Dostoevsky, interpretato da Caterina Boccardi, è un po' la pazza dei Karamazov, insomma lo sguardo folle e malinconico che in qualche modo interviene all'interno della vicenda per dare anche poi un'immagine femminile. Lisa non è solo una donna, è l'immagine della carne, del desiderio, è una donna chiave all'interno del romanzo, insomma, e si realizza un po' un confronto con l'immagine contemporanea di questa società in cui, insomma, l'incarnazione e l'ideale sono ormai quelli di un tempo antico, non certamente confrontabili con quelli del contemporaneo. Molto interessante il progetto, 17 dicembre quindi questa sera, per vedere ancora l'ultima replica di Lisa al Teatro Cometa Off. Poi Spazio Diamante, 18-22 dicembre, per questo lavoro di Molino ad Arte, monologo teatrale Impatto Ambientale Zero, Mi abbatto e sono felice, Daniele Ronco, che si ispira a questo testo di Maurizio Pallante, De crescita felice, con la regia di Marco Cavicchioli, appunto sul palco, questo monologo sul palco dello Spazio Diamante. Non è previsto l'utilizzo di corrente elettrica, i costumi, gli elementi scenici sono riciclati e ridotti all'osso e c'è solo una bicicletta al centro del palcoscenico, è collegato a una dinamo e un faro, produce l'energia necessaria grazie allo sforzo fisico dell'attore. Questo è un po' la struttura di questo Mi abbatto e sono felice. Il libro, insomma, De crescita felice, si occupa di green economy, di ecosostenibilità, inquinamento ambientale, abusi sugli animali, alimentazione vegetariana, quindi insomma, questi sono i temi di questo spettacolo, 18-22 dicembre, Spazio Diamante, per ciò che riguarda Mi abbatto e sono felice. Poi questo lavoro al Teatro Riserbi, con 17 stasera fino al 22 dicembre, Menzogne estremamente sincere, regia di Emiliano De Martino, due coppie, due mondi diversi e anche simili, sono quattro persone che vivono la propria vita come la credono e sentono giusta, ma poi la realtà si struttura in un modo completamente diverso e sviluppa degli appuntamenti inattesi. Quindi ancora per ricordare il MES, dal 17 al 22 al Teatro di Servi. Procediamo perché continuano gli appuntamenti a Roma, gli sguardi metropolitani fino al 20 dicembre a Piazza Sempione al Municipio 3 e al Bruno Munari, sempre a Monte Sacro, danza, teatro, musica, circo curati da Twain, Centro Produzione Danza di Loredana Parrella, sul cui sito invito per andare a vedere insomma gli appuntamenti più nello specifico, quindi avremo appuntamenti nel quartiere fino a questa domenica 20 dicembre. Poi ad Officine Pasolini ancora questa sera per la prima indagine di Montalbano, Andrea Camilleri, autore del testo, veramente usano anche i tasti, e alla regia Massimo Venturiello, che porta in scena insomma le storie di Camilleri che hanno dato vita insomma alla fortunata serie televisiva del commissario Montalbano, ma la prima indagine di Montalbano, appunto, ancora Officina Pasolini, questa sera 17 di dicembre. Il 19 al Nuovo Teatro Ateneo Ennio Greco e Peter Scholten daranno vita a questa lezione aperta Il corpo in rivolta. Sarà il 19 dicembre alle ore 21 e presenterà l'esito del laboratorio noto da studenti e danzatori nei 4 giorni di workshop proprio con il grande coreografo internazionale Ennio Greco. E quindi insomma un'occasione unica per vedere il lavoro in corso d'opera di un grande coreografo. Quindi 19 di dicembre per ciò che riguarda appunto Ennio Greco al Nuovo Teatro Ateneo. Il 18 invece, che è domani, andremo a vedere al Teatro Palladium questa messa in scena totale, diciamo, del teatro shakespeariano, con Playing Shakespeare di Loredana Scaramella, che già ha dato scena al teatro al Globe Theater quando c'era il Globe Theater, fortemente voluto da Gigi Proietti quando c'era Gigi Proietti. Non so, è rimasto soltanto Loredana Scaramella e tutti i suoi attori se ne vanno in scena al Teatro Palladio il 18 dicembre con questo lavoro intimamente e completamente shakespeariano. Poi ancora, sempre al Teatro dei Servi, attenzione, attenzione, al Teatro dei Servi si segnala ulteriormente con un progetto a parte, ammesso che il mio computer decida di farlo vedere, eccolo qua, con questo Nessuno Assente, è un progetto a cura di Alt Academy con la direzione artistica di Pino Stravioli ed è un lavoro appunto sul come nasce il teatro, quindi verranno poi coinvolti alcuni artisti, c'è un 18, 19 e 20 dicembre questo Gregory, una storia di famiglia con la regia di Nicola Pistoia, il testo di Veronica Liberale, quindi insomma questo per quanto riguarda questa settimana, poi magari ci si tornerà su nelle prossime. Allo Spazio Diamante ancora dal 20 dicembre, quindi coda alla settimana, ma fino al 12 gennaio, questo 39 scalini dal film Alfred Hitchcock, testo di John Buchan, con la regia di Leonardo Buttaroni, forse non è la prima volta che in scena un film, Il Club dei 39 di Alfred Hitchcock, che se non sbaglio sono spettacoli di questi ultimi anni, ma torna in scena chiaramente un giallo tratto appunto dal romanzo omonimo di John Buchan. L'opera è stata poi trascritta per il teatro da Patrick Barlow nel 2005, 4 gli attori che portano in scena, ma molti sono i personaggi dalle caratteristiche più diverse, andremo insomma a vedere un giallo, ma anche divertente, fatto di gag, travestimenti, che insomma ruota attorno al grande maestro del brivido, Alfred Hitchcock. Quindi dal 20 di dicembre fino al 12 gennaio, Spazio Diamante, c'è molto tempo per andarlo a vedere. All'interno di Teatri di Vetro, che continua questa settimana con molti appuntamenti e invito insomma ad andare sul sito teatridivetro.it per il programma completo, in vari spazi insomma c'è modo di vedere un bel po' di cose. Io ne segnalo alcune, per esempio oggi pomeriggio alle 17:30 Opera Bianco presenta questo dialogo con Sara Baranzoni nello scorrere della creazione, mentre invece la sera andremo a vedere un po' di lavori dal primo studio di Fondi al Teatro India, Ilenia Romano con Strings, e in chiusura della serata questo Monas, La reale sostanza delle cose, il testo dello spettacolo firmato, un'opera ibrida tra installazione, autopoiesi, coreografiche e live cinema di Teatri in Gestazione, Anna Gesualdi, ma proseguiremo anche nei giorni successivi con Lucia Guarino il 18 dicembre, con Pinocchio, Teatro Acropolis, Simone Alessandrini, insomma protagonisti, tornerà Alessandra Cristiani con Caduta la neve di Sarah Moon, Silvia Gribaudi con Insecto Microbo, insomma teatridivetro.it per il programma completo, vedremo Paola Bianchi, Irene Russolillo, insomma molta coreografia nazionale e internazionale al Teatro India per Teatri di Vetro questa settimana. Noi continuiamo ad andare oltre, ad andare avanti per ancora un paio di appuntamenti interessanti, a 2 o 3, via. Proseguono i racconti romani al Teatro Torlonia a cura di Emanuele Trevi ed Elena Stancanelli anche per questi prossimi giorni, questa settimana, poi ce ne riparlerà più avanti, a marzo, però andremo a vedere dal 19 al 22 dicembre i racconti naturali straordinari di Antonio De Benedetta a Marsimale in scena. Ci saranno Grazia Capraro e Paolo Madonna. Questo per quanto riguarda il Teatro Torlonia. Segnalo che il Teatro Vascello continua il Faust fino al 22 dicembre con la regia di Leonardo Manzan, si tratta di uno dei registi più in vista della nuova generazione, che ha avuto molti riconoscimenti anche dalla Biennale di Venezia. Insomma, il Faust di Goethe è attraversato da Manzan indagando il tema del ruolo del teatro nella società, la responsabilità di chi crea nei confronti del pubblico dei limiti dell'espressione che ha poi il desiderio individuale. Ci sono molti, molti attori. La vicenda del Faust, insomma, un po' la conosciamo. C'era una volta un uomo che fece un patto con il diavolo, ecco, questo potremmo dire in una riga, fino al 22 dicembre al Teatro Vascello. Ultimissime due cose che ricordiamo questa settimana. Una sarà al Teatro Biblioteca Quarticciolo, perché dal 18 al 21 di dicembre torna il Teatro delle Ariette con Noi siamo un minestrone, ed è il lavoro di Paola Berselli, Stefano Pasquini, dedicato al cibo, alla possibilità di stare insieme, del creare comunità, che poi è il cerchio attorno a cui si muove il Teatro delle Ariette, ma non è un cerchio, in realtà è uno spazio quadrato, perché al centro, su tavoli bassi, ci sono due pentoli e tutto è necessario per fare il minestrone. Quindi, come al solito, il lavoro delle Ariette, appunto muovendosi attorno al cibo e al racconto, poi le due cose confluiranno l'una nell'altra. Quindi lo andremo a vedere al Teatro di Biblioteca Quarticciolo dal 18 al 21 di dicembre. Ultimissima cosa che andiamo a ricordare sarà al Teatro Argo Studio, perché con grande piacere segnalo il ritorno a Roma di un grande attore, Roberto Latini, 19-22 dicembre, per un lavoro che ci riporta indietro nel tempo. È la riproposizione in veste sonora del lavoro che Roberto Latini aveva dedicato a Iago, una riscrittura dell'Otello di Shakespeare, appunto dal punto di vista dell'antagonista Iago, che già nel 98 e nel 2007 era stato portato da Latini sulla scena. Iago è una sorta di ragno che tesse la tela per intrappolare il moscone nero, così potremmo riassumere. Dal 19 al 22 dicembre questo concerto scenico per uno dei più grandi attori italiani di questo secolo al Teatro Argo Studio, Roberto Latini con Iago. E con questo è tutto, ciao! Questa è tutta scena teatro su Radio Onda Rossa. Il martedì alle ore 14. Trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali. I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.